Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Comparto unico, contratto in stallo, CGIL in piazza martedì sotto il Consiglio regionale dopo lo stop alla trattativa per gli aumenti annunciato dall'assessore Pierpaolo Roberti. 13.000 dipendenti di regione e comuni restano in attesa. Tassare i colossi della tecnologia in caso di fallimento dei negoziati sui dazi di Trump, lo chiede la CGIA di Mestre, secondo cui le grandi società americane di internet pagano 8 volte meno tasse delle imprese del Friuli Venezia Giulia. 33 anni fa l'attentato di mafia che uccise il magistrato Paolo Borsellino a Palermo, tra gli uomini della scorta vittime della bomba il mugesano Eddie Cosina, ricordato oggi in una messa stasera. Un documentario su Rai 3 parlerà proprio di lui. Traffico da Bollino Rosso sulla rete autostradale oggi, intenso il flusso in particolare in A4 verso est, mentre sull'A23 tra Palmanova e Tarvisio rallentamenti in entrambe le direzioni. Salvo grazie al vaccino, la testimonianza di un 15enne pordenonese che ha superato con successo una meningite con l'aiuto dell'immunizzazione. C'è bisogno di sangue anche d'estate, per questo l'appello a donare prima delle vacanze da parte di Avis, il tema del ricambio generazionale. Spettacoli, oggi l'inaugurazione di Mittelfest a Cividale e il primo concerto del No Borders Music Festival di Tarvisio con Ben Harper, udinese. Ora i tifosi sperano in un mercato di livello per rendere la squadra competitiva dopo la cessione di Luca, ieri il debutto con l'amichevole contro l'Opatia, finita 1-1. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, in studio Antonio Di Bartolomeo. Tempo cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, dunque cominciamo con le temperature registrate poco fa. Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperature di 25 gradi, Gorizia 28,5, Udine 27,5, Pordenone 25,5, Tolmezzo 25, Fornisopra e Tarvisio 23, Sappada 21, Piancavallo 18,5, su Lussari 15 gradi, sullo Zoncoan 14,5. A Grado 27 gradi con temperatura del mare di 26, a Lignano 25,5, temperatura del mare di 26,5, dunque temperature piacevoli, in linea sostanzialmente con la media del periodo. Nelle prossime ore, secondo l'ARPA, ci possiamo aspettare un aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, dove a partire dalla Carnia saranno possibili rovesci o temporali che potranno interessare in serata e nella notte successiva anche le altre aree della zona montana, la pianura e la costa, con venti di brezza. Dunque, vi abbiamo parlato nei titoli, come avete sentito, della rottura delle trattative sul rinnovo del contratto del comparto unico con la CGIL che annuncia una manifestazione sotto il Consiglio regionale. Torneremo tra pochissimo su questa notizia, ma intanto parliamo della questione dei dazi che continua a tenere banco. I grandi giganti della rete pagano un livello di tasse fino a 8 volte inferiore alle imprese del Friuli Venezia Giulia, e quanto stima la CGA di Mestre, l'associazione che rappresenta artigiani, piccole imprese e partite IVA. Sulla base di questo dato, la CGA invita l'Unione Europea a colpire i colossi tecnologici a stelle e strisce in caso di mancato accordo commerciale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato tariffe dal 30% a partire dal 1 agosto. Per la CGA qualsiasi dazio superiore al 15% sarebbe insostenibile per le imprese del nord-est, in particolare del Friuli Venezia Giulia. Tra le possibili misure di ritorsione, appunto, l'associazione invita a riflettere sulla tassazione delle imprese tecnologiche americane. Sentiamo dunque Paolo Zabeo, il coordinatore dell'ufficio studi della CGA. Nell'ultimo G7 tenutosi in Canada nel mese scorso, l'amministrazione Trump ha sottoscritto un accordo dove i colossi tecnologici americani non saranno più sottoposti alla Global Minimum Tax. Insomma, la situazione ci è sfuggita di mano. Se da un lato gli Stati Uniti cancellano le tasse alle loro big tech, dall'altro impongono alle nostre esportazioni dazi spaventosamente elevati. È evidente che Bruxelles deve continuare a negoziare con Washington sino all'ultimo minuto disponibile, ma se entro il prossimo 1 agosto non otterrà un compromesso ragionevole, bisognerà mettere mano a controdazi e a misure sanzionatorie nei confronti delle big tech americane. Si chiude oggi a Moggio Udinese la scuola estiva di Innovalp, un progetto dedicato alle terre alte, ossia ai territori alpini e appenninici. Sentiamo com'è andata e cosa ne è venuto fuori. Futuro rilancio territorio con l'aggiunta del pensiero giovane per rendere viva la montagna attraverso il collante dell'innovazione sociale, un mix vincente proposto dal contenitore di ricerca Innovalv Montagne Produttive della cooperativa Kramars, la presidente Stefania Marcoccio. Non abbiamo lavorato solo a Moggio, abbiamo lavorato nelle sue frazioni. E le famiglie sono state una parte fondamentale perché spesso i ragazzi poi si fermavano a cena con loro e quindi c'era modo di continuare, di verificare quelle che erano le cose che avevano sentito, condiviso fra di loro, riportate in famiglia, quindi con la lente e con la lettura degli abitanti, dei residenti di Moggio. Quattro i percorsi progettuali presentati, coinvolti nella Summer School 20 giovani di formazione diversa da 10 regioni, tra questi Laura Di Tommaso, dottoranda in pianificazione urbana, che nell'ecomuseo diffuso dedicato alla lavorazione della carta intravede il rilancio della zona. Moggio Udinese ha questa identità che può essere realmente valorizzata e può divenire un driver di innovazione sociale per questo territorio, quindi crediamo davvero che sia una strategia che questa comunità dovrebbe adottare. Questo tipo di strategie territoriali funzionano molto bene in alcune parti d'Italia e personalmente credo andrebbero replicate e valorizzate in tutto il territorio nazionale, che come sappiamo è fatto di aree interne. Oltre all'ascito del cartiere, i partecipanti hanno intravisto il rilancio del luogo attraverso l'abitare condiviso diffuso per promuovere il ripopolamento, un osservatorio permanente al servizio dei bisogni della comunità e il network fra territori con termini. Le proposte sono state sviluppate in una settimana intensa che ha coinvolto positivamente la comunità. Martina Gallizia, sindaca di Moggio Udinese. Hanno portato una ventata di aria fresca, tutta la comunità li ha notati e si è mobilitata anche per accoglierli con l'esperienza dell'accoglienza diffusa. Sono progetti che speriamo di riuscire a concretizzare perché il lavoro è stato tanto, è stato un lavoro di competenza. Moggio Udinese, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Rimanendo in tema, si è tenuta ieri a Malborghetto l'iniziativa Il Bosco che ci unisce, la bioeconomia del bosco, promossa dalla Fondazione AgriFood e Bioeconomy. L'obiettivo è valorizzare la bioeconomia forestale come leva di sviluppo sostenibile per le aree montane. L'assessore regionale Stefano Zanni ha sottolineato il potenziale imprenditoriale del settore, in particolare per i giovani, evidenziando come la bioeconomia possa integrare attività già esistenti, come la gestione forestale, con nuove iniziative innovative. Dunque torniamo alla notizia che avete sentito nel primo titolo, la rottura delle trattative sul rinnovo del contratto del comparto unico con la CGIL che annuncia una manifestazione sotto il Consiglio regionale per martedì quando si discuterà l'assestamento di bilancio per il quale la Regione aveva accantonato 13 milioni per finanziare gli aumenti ritenuti ancora insufficienti da CGIL e CISAL. L'emendamento è stato stralciato come conseguenza dall'assessore Pierpaolo Roberti. I 13.000 dipendenti regionali, comunali e DDR devono dunque ancora attendere per vedere una busta paga più gonfia. Per ora sembrano inconciliabili le posizioni di Regione e sindacati sugli aumenti di stipendio del comparto unico. I 13 milioni di euro stanziati dall'amministrazione per gli oltre 13.000 dipendenti di Regione, comuni ed enti locali non sembrano infatti essere sufficienti per la maggioranza delle parti sociali, costituite per il 32% dalla CGIL e per il 25% dalla CISAL. Uno stanziamento di cui però la Regione rivendica l'accuratezza per una questione che risale alla scadenza del contratto dello scorso dicembre. Dopo l'allineamento all'aumento del 6% contenuto nel rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti pubblici, la Regione aveva calcolato una crescita del 9,5%, ottenuta con il 7,5% sul minimo salariale e il 2,1% sul welfare. Chiarisce l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti. Un numero che è quello che viene fuori semplicemente da un calcolo matematico e che non possiamo permetterci di aumentare, perché ricordo sempre ai cittadini e ai dipendenti dei comuni e della regione che noi disponiamo di risorse pubbliche, non? Quindi possiamo arrivare fino a dove la legge ce lo permette, oltre non possiamo arrivare, e questo anche i sindacati lo sanno perfettamente. Cifre che però si discostano dalla richiesta di una crescita doppia cifra che i sindacati avevano già ipotizzato nei mesi precedenti, spiega la segretaria regionale CGIL Funzione Pubblica, Orietta Olivo. È troppo facile appiccicare alla CGIL così, la figura di quelli che non firmano. Noi non firmiamo i contratti dove non c'è un vantaggio per i lavoratori e per le lavoratrici sufficiente. E le bollette pagate dai lavoratori e lavoratrici del comparto, come tutti noi, hanno subito un aumento del 15% in quegli anni. Posizioni che sembrano quindi rimandare la questione alla prossima manovra finanziaria regionale di dicembre. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. La maggioranza del personale aveva la mia età, eravamo coetanei, tra i 20 e i 25 anni. E il primo che mi venne incontro, tra l'altro, fu proprio Eddie. E mi accolse con un sorriso che ti metteva a tuo agio, sostanzialmente. Tra l'altro era triestino, quindi ancora era molto positivo, perché ha detto questo sicuramente mi aiuterà a conoscere la città. Quello che avete sentito è uno spezzone del documentario I ragazzi delle scorte, una serie che ricorda gli agenti appunto delle scorte uccisi insieme ai giudici Falcone e Borsellino. Questa puntata è dedicata a Eddie Cosina, il poliziotto di Muggia, vittima della strage mafiosa di Via D'Amelio 33 anni fa, puntata che andrà in onda su Rai 3 stasera alle 22:20 ed è già disponibile peraltro su Rai Play. A ricordare la gente, una messa di suffragio appunto proprio in occasione di questo anniversario oggi a Muggia. Ricordiamo non solo un muggesano, un corregionale, un poliziotto, ma un eroe che ha dato la vita per lo Stato nella lotta contro la mafia, ha detto l'assessore Roberti. Cosina sarà commemorato anche nel torneo di calcio dedicato a Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, due poliziotti uccisi a Trieste in questura nel 2019. La sesta edizione di questo torneo e di questa iniziativa vede come protagoniste le rappresentative di polizia, di medici, di infermieri dell'emergenza, di politici e di giornalisti. Il calcio d'inizio alle 17 al campo di Trebiciano. Code e rallentamenti come previsto quest'oggi sulla rete autostradale, è una giornata marchiata con il bollino rosso da chi stima i flussi della viabilità. A peggiorare il quadro, un incidente dopo le 8 di mattina tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste, che si è comunque risolto presto. La direttrice est è quella più trafficata, solo per oggi si stimano 190.000 passaggi in A4. Rallentamenti cominciano da poco dopo Venezia e proseguono fino praticamente alla barriera delle Lisert. Traffico intenso anche in A23 tra Udine e Nodo di Palmanova, in corrispondenza di entrata e uscita del casello di Latisana. Qualche chilometro di fila anche alla barriera di Ugovizza Tarvisio, con la zona autostradale del Tarvisiano congestionata in entrambe le direzioni. La Capitaneria di Porto di Trieste è intervenuta ieri per soccorrere un natante polacco di 8 metri con due persone a bordo, colpito da un principio di incendio e da un'imbarcazione d'acqua per una avaria al motore. L'allarme è partito tramite il 112. Sul posto sono arrivate la motovedetta di Grado, la Guardia Costiera slovena e i Vigili del Fuoco. Spento l'incendio con un solo motore operativo, l'imbarcazione è stata scortata a bassa velocità fino al villaggio del Pescatore, dove è poi intervenuta la motovedetta di Trieste. Un ragazzo di 15 anni di Pordenone ha superato con successo una malattia potenzialmente letale, la meningite da meningococco. Merito della guarigione da attribuire anche e soprattutto al vaccino, secondo il medico che lo ha seguito. Di qui l'appello a immunizzarsi. Lo scorso sabato Alessandro, un ragazzo di 15 anni di Pordenone, è arrivato all'ospedale con febbre e mal di testa. Trattato con farmaci sintomatici, si sente meglio e viene rimandato a casa. Il giorno dopo però si aggrava e torna al pronto soccorso. Quando sono arrivato ero un corpo che camminava, praticamente non ero neanche cosciente, e cioè ero sveglio per modo di dire, avevo mal di testa allucinante, sentivo la testa che mi schiacciava tutto. Rigidità nucale, confusione, difficoltà a stare in piedi, i sintomi sono quelli della meningite e gli esami lo confermano. Il ragazzo viene trattato in maniera corretta e pochi giorni dopo guarisce. Fondamentale il fatto che fosse vaccinato contro la meningite. Sergio Venturini, responsabile delle malattie infettive per ASFO. Questo tipo di meningite è un tipo di meningite molto raro. Tenete presente che nel 2023 ci sono stati 80 casi in Italia in complesso. L'ultimo caso che abbiamo avuto qua in ASFO di meningite da meningococco è datato ormai 2019, per cui è una patologia rara ma è fortemente invasiva e dall'elevatissima mortalità, perché abbiamo una mortalità che si aggira intorno al 18-20%, quindi è un dato molto impattante. Questo ovviamente viene smorzato dalla terapia antibiotica e steroidea rapida, efficace, ma soprattutto dalla vaccinazione. Il vaccino contro il meningococco è raccomandato dai piani nazionali. Si può fare gratuitamente anche in adolescenza, rivolgendosi ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie. Daniele Santori, medico di pediatria dell'ospedale di Pordenone. Il vaccino ha senz'altro permesso al ragazzo di avere una propria immunità nei confronti di questo germe, che è un germe altamente invasivo, per cui il vaccino ha probabilmente sicuramente rallentato il decorso della malattia e ha aiutato gli operatori a stabilire un trattamento che è risultato efficace, ecco. Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il fabbisogno di trasfusioni di sangue non va in vacanza. Un appello a donare prima di andare in ferie arriva da Avis, una delle associazioni impegnate in questo campo. Donazioni che sono in leggero calo a livello locale e nazionale, anche per una ragione demografica. Sentiamo. Siamo con Francesco Donno, che è il nuovo presidente regionale dell'Avis da aprile. Quali sono stati i dati per quello che riguarda la donazione di sangue del primo semestre del 2025? I dati del primo semestre per Avis sono nella media, leggermente in calo, sono circa 7.000 le donazioni registrate, diciamo a riferimento di circa 14.000 dell'anno precedente. Quello che ci interessa di più è che questo numero in realtà è comunque in linea con il fabbisogno richiesto dalle strutture ospedaliere, e questo quindi comunque anche a fronte del leggero calo, dicevo, ci garantisce la possibilità che i malati abbiano le loro trasfusioni disponibili. Perché è importante donare l'estate prima di andare via? Non è soltanto una questione di incidenti stradali o di prevenzione? Proprio così. I motivi sono prevalentemente due. Il primo è che comunque in generale si registra da noi in Friuli Venezia Giulia e anche in resto d'Italia un leggero calo, e questo quindi, a quanto riferito precedentemente, può creare delle difficoltà. Il secondo motivo è che comunque ci si può recare per vacanza in località particolari che oggi come oggi potrebbero prevedere al rientro dalle ferie effettivamente un blocco temporaneo alle donazioni. Per questo l'appello è proprio quello di andare a donare prima di recarsi in villeggiatura in località particolari. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Stamattina all'Istituto Malignani di Udine la tradizionale festa di diplomi, in programma premi agli studenti meritevoli e saluto ufficiale al dirigente Olivero Barberi, che lascia l'istituto dopo anni di guida. Alla cerimonia ha preso parte il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Primo laureato per il corso di laurea magistrale in cittadinanza e istituzioni politiche europee al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Si tratta di Alex Zagis, udinese, che ha discusso una tesi sul modello di partnership tra Unione Europea e Corea del Sud, una tesi che è stata valutata con 110 lode. Zagis è al suo terzo titolo, alla sua terza laurea nell'Ateneo friulano. I carabinieri ricordano il Sacrario Militare di Oslavia, il 110° anniversario della battaglia di Podgorano, uno degli scontri chiave della Prima Guerra Mondiale sul fronte dell'Isonzo. Oggi la cerimonia. Una tempesta di piombo e di ferro che imperversava da ogni parte, sotto la quale però i carabinieri rimasero saldi e impavidi. Con queste parole fu descritta la battaglia del Podgora, che avvenne esattamente 110 anni fa, il 19 luglio del 1915, ricordato come uno degli episodi più eroici dell'arma durante la Prima Guerra Mondiale. Vide l'assalto da parte del reggimento carabinieri alla quota 240 del Monte Calvario, sotto il fuoco dell'esercito austro-ungarico asserragliato nelle trincee. Per i carabinieri l'ordine era di procedere senza sparare e di affidarsi solo alla baionetta per non perdere slancio, ordine che fu rispettato con tenacia finché non fu dato l'ordine di fermare l'azione. In totale ci furono 53 morti e 143 feriti e 10 dispersi. Un momento che i carabinieri hanno ricordato con la tradizionale cerimonia a Gorizia. In una mattinata senza una nuvola hanno reso gli onori alla memoria dei caduti al Sacrario di Oslavia e, dopo aver deposto tre corone, Leone, marciando sul Leone del Piave, si è tenuto nella cripta un breve momento di preghiera. Le celebrazioni sono poi continuate alla caserma Cascino, sede del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia, in forma solenne, con il saluto del vice sindaco di Gorizia, Chiara Gatta, e un discorso del comandante generale dell'arma, Salvatore Luongo, che ha ricordato l'eroismo di alcuni dei caduti e ha sottolineato come quell'episodio illustri il patrimonio di valori dell'arma, dalla disciplina allo spirito di patria. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport. Con il calcio, l'Udinese ha dato il via alla stagione con un pareggio per 1-1 nell'amichevole disputata ieri contro la NK Opatija, formazione croata di seconda divisione, sul campo sportivo di Fagagna. Il test ha offerto spunti interessanti, soprattutto per valutare la condizione dei molti giovani inseriti e sperimentare il modulo 4-3-3, anche se il tridente non ha punto particolarmente. I tifosi attendono ora colpi di mercato entro la fine dell'estate, soprattutto dopo la cessione di Lucca, per garantire a Mister Unaic un reparto offensivo competitivo e alimentare l'entusiasmo per la nuova stagione. Tra i nomi che girano per l'attacco, quelli di Lorenzo Insigne e di Giovanni Simeone. 70° anniversario per il Golf Club di Trieste, il primo campo da golf della regione, a Patriciano, per celebrare la ricorrenza. Il circolo ha organizzato per oggi una giornata di porte aperte alle 16.30, in programma anche un'esibizione di Giulia Sergas, triestina tutt'oggi la più titolata golfista italiana. Sono 100 i chilometri della Bike Night, la notte in bicicletta, che saranno percorsi all'alba da Udine a Ugovizza sulla ciclovia Alpe Adria per la manifestazione non competitiva, che prevede 3 ristori e colazione all'arrivo. È già registrato 300 iscrizioni. Ritrova Udine in Piazza Libertà dalle 21, il percorso include l'attraversamento del centro città per poi proseguire sull'Ippo via del Parco del Cormor, poi da Gemona seguirà l'ex ferrovia fino a Govizza. Sarà sempre fornita assistenza tecnica e medica. Friuli Venezia Giulia sul podio nazionale per quanto riguarda il numero di spettacoli in rapporto alla popolazione, lo rileva il rapporto del 2024 di SIA, il principale ente italiano incaricato della tutela, della gestione e dell'intermediazione dei diritti d'autore. Si contano 77 spettacoli ogni 1000 abitanti, lo stesso livello della Valle d'Aosta, solo l'Umbria fa meglio. E per rimanere in tema, cerimonia inaugurale per la 34esima edizione di Mittelfest, oggi festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo a Cividale, quest'anno declinato sul tema del tabù, alla chiesa di San Francesco alle 19, una riflessione sui limiti visibili e invisibili delle società, diversi gli spettacoli in programma da metà pomeriggio fino a sera. Il cantante e chitarrista statunitense Ben Harper, lo ascoltate in sottofondo, sarà protagonista all'inaugurazione della 30esima edizione del Non Borders Music Festival, rassegna musicale del Tarvisiano al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Nel cartellone di quest'anno compaiono nomi celebri come quello di Mika, che si esibirà domani, e quello di Giovanotti sabato 26 luglio con uno speciale concerto in e per le biciclette, e poi Lucio Corsi domenica 27 luglio al Rifugio Gilberti, invece il live di Goran Bregovic sabato 2 agosto. Lord, with my own two hands and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own. Si intitola Sguardi nel buio degli anni luce, la fotografia astronomica tra scienze e arte, la mostra in cui saranno esposte immagini di vario tipo di oggetti che popolano l'universo osservabile. L'esposizione sarà inaugurata a Forni di Sopra presso la Sala Dolomiti Incontri alle 17. Ne abbiamo parlato con il presidente del Centro Studi Astronomici Antares, che ha curato questa mostra, Stefano Schirinzi. Gli abbiamo chiesto che cosa renda così particolari le immagini in esposizione. Le immagini prese dai soci astrofotografi del Centro Studi Astronomici Antares Trieste sono realizzate tramite lunghe ore di integrazione di pose. Questo cosa vuol dire? Ogni singola immagine è il prodotto della somma di più riprese, ognuna di una certa durata di tempo, che sommate danno ad esempio 4 ore di posa totale, 5 ore, 6 pose. Chiaramente all'aumentare della posa aumentano anche i segnali, il rapporto rumore nella fotografia diciamo migliora, rendendo il fondo scuro e portando alla visione dettagli altrimenti non rilevabili. Quali sono i dettagli che si possono vedere che sono inusitati? Per quanto riguarda le galassie, certamente regioni cosiddette H2, ovvero aree intrise di idrogeno molecolare che danno poi vita a stelle e a massi stellari. Per quanto riguarda le nebulose, certamente i globuli di Bok cosiddetti, ovvero aree nubi molecolari estremamente dense, per lo più formate da polveri, carbonio anche, all'interno delle quali poi nascono anche le stelle. Qual è stato l'impegno per poter ottenere queste immagini? Per produrre immagini simili certamente ci vuole una grande dose di pazienza e di conoscenza relativamente alle tecniche di ripresa, perché chiaramente l'uso di filtri e di telescopi di schema ottico differente fornisce poi fotografie differenti tra loro. Per ogni oggetto astronomico ci vuole una certa tipologia di ripresa che ne consente di cogliere i particolari anche minimi. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Doppio appuntamento stasera con Udine Jazz al Castello al 21, Vincent Garcia. Alle 22 si esibirà invece Matteo Mancuso. Oggi al via anche la sesta edizione del Festival Nova Valbruna. L'attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour, autrice della Notte sopra Teheran, voce autorevole nella battaglia per l'emancipazione delle donne iraniane, parlerà alle 17, appunto nell'appuntamento di Valbruna. Più tardi alle 21 Angelo Floramo proporrà lo spettacolo Balkan Tour. Il festival andrà avanti fino a mercoledì e domani torna Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parla dello spettro dei dazi di Trump, minaccia ancora difficilmente quantificabile per l'export del vino regionale. A seguire gli odori della cucina della Casa Colonica, tra legno bruciato e profumo di polenta, agricoltura sempre più meccanizzata e nostalgia della vita nei campi, non bere ma degustare per capire la poesia liquida del vino. E ancora la differenza tra confettura e composta di frutta codificata da norme di legge. Alta slanciata, porpora acceso, l'eleganza verticale della liatris spicata. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:57 minuti e 27 secondi, concludiamo questa edizione del giornale Radio Il Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Antonio Di Bartolomeo. La parte tecnica è stata garantita da Paolo Cassano e Pasquale Nocera, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie dell'ascolto, vi diamo appuntamento a più tardi per l'edizione pomeridiana che è di sabato alle ore 14:30. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.